Gaio. Non bisogna stuzzicarli. Niente movimenti bruschi. L'importante è muoversi a tempo. Sincronia perfetta. Plasticità silenziosa. Pare funzioni. Tutti intorno solo colossi. Acciaio. Non bisogna stuzzicarli. Niente movimenti bruschi. L'importante è muoversi a tempo. Sincronia perfetta. Plasticità silenziosa. Pare funzioni.